Capitolo 38. Il diluvio di Deucalione. Il diluvio di Deucalione, così chiamato per distinguerlo dal diluvio Ogigio e da altri diluvi, fu provocato da Zeus che volle punire gli empi figli di Licaone, figlio di Pelasgo. Licaone civilizzò l'Arcadia e fu il primo a istituire il culto di Zeus Liceo, ma poi si attirò la collera di Zeus stesso, sacrificandogli un fanciullo. Egli fu perciò trasformato in un lupo e la sua casa colpita dalla folgore. Secondo taluni, i figli di Licaone erano 22, secondo altri 50. La notizia del delitto commesso dai figli di Licaone giunse sull'Olimpo e Zeus, travestito da povero viandante, si recò da quei malvagi. Essi ebbero la sfrontatezza di offrirgli una zuppa in cui le interiora del loro fratello Onittimo si trovavano mescolate a quelle di pecore e capre, ma Zeus non si lasciò trarre in inganno e, rovesciando la tavola su cui era stato servito quell'orrendo pasto, e il luogo fu in seguito chiamato Trapezunte, li trasformò tutti in lupi, salvo Onittimo, cui ridonò la vita. Ritornato sull'Olimpo, il cuore greve di disgusto, Zeus scatenò una grande alluvione sulla terra che avrebbe dovuto distruggere il genere umano. Ma Deucalione, re di Ftia, avvertito da suo padre Prometeo il Titano che si era recato a trovare nel Caucaso, costruì un'arca, la riempì di vettovaglie e vi salì con sua moglie Pirra, figlia di Epimeteo. Quando il vento del sud cominciò a soffiare, cadde la pioggia e i fiumi si precipitarono con fragore verso il mare che, gonfiatosi con velocità sorprendente, spazzò via le città della costa e della pianura, finché tutto il mondo fu sommerso, salvo poche vette di monti, e tutte le creature mortali parvero perdute, salvo Deucalione e Pirra. L'arca navigò per 9 giorni e infine, quando la furia delle acque si placò, andò a posarsi sul monte Parnaso o, come altri dicono, sul monte Etna o sul monte Athos o sul monte Otre in Tessaglia. Si dice che Deucalione fu rassicurato da una colomba che aveva mandato a esplorare in volo la regione circostante. Sbarcati sani e salvi, Deucalione e Pirra offrirono un sacrificio a Zeus padre, che salva i fuggiaschi andarono a pregare nel santuario di Temi presso il fiume Cefiso. Il tetto era coperto d'alghe e le ceneri dell'altare ormai fredde. Essi supplicarono umilmente che il genere umano potesse rivivere Zeus. Udendo le loro voci da lontano, mandò Ermete a dir loro che qualunque cosa chiedessero sarebbe stata concessa. Apparve allora Temi in persona e ordinò: «Chinate il capo e gettatevi dietro le spalle le ossa di vostra madre». Poiché Deucalione e Pirra avevano madri diverse, ambedue morte, capirono che la titanessa alludeva alla madre terra e che le sue ossa erano le pietre sparse lungo le rive del fiume. Abbassando dunque il capo, raccolsero codeste pietre e se le gettarono alle spalle, e le pietre si trasformarono in uomini o donna, a seconda che fossero state gettate da Deucalione o da Pirra. Così rinacque il genere umano, e da quel giorno gente, laos, e pietra, laas, sono state designate pressappoco con la stessa parola in molte lingue. Tuttavia, come si seppe poi, Deucalione e Pirra non furono gli unici sopravvissuti al diluvio, poiché Megaro, figlio di Zeus, fu strappato dal sonno dalle grida di certe gru che gli raccomandavano di rifugiarsi sulla vetta del monte Gerania, che infatti non fu sommerso dalle acque. Un altro scampato fu Cerambo del Pelio, che, trasformato in scarabeo dalle ninfe, volò sulla vetta del Parnaso. Parimenti, gli abitanti di Parnasso, una città fondata da Parnaso, figlio di Poseidone, che inventò l'arte augurale, furono destati dagli ululati dei lupi e li seguirono sulla cima del monte. In onore dei lupi, appunto, chiamarono poi Licorea la loro nuova città. Il diluvio ebbe dunque scarso effetto, poiché alcuni dei Parnasi emigrarono in Arcadia e fecero rivivere gli orrendi riti di Licaone. Ancora oggi un fanciullo viene sacrificato a Zeus Liceo e le sue interiora sono unite ad altre in una zuppa, che è poi servita a un gruppo di pastori riuniti presso un torrente. Il pastore che mangia le interiora del fanciullo, assegnate a lui dopo estrazione a sorte, comincia a ululare come un lupo, appende le sue vesti a una quercia e diventa un licantropo. Per 8 anni vaga in branco con i lupi, ma se si astiene dal mangiare carne umana per tutto quel periodo, può ritornare al luogo della riunione, attraversare a nuoto il fiume e riprendere le sue vesti. Non molto tempo fa, un Parnasio di nome Damarco passò 8 anni coi lupi, poi ridivenne un essere umano e, dopo essersi esercitato a lungo in palestra, vinse la gara di pugilato nei Giochi Olimpici. Codesto Deucalione era fratello della cretese Arianna e padre di Oresteo, re dei locresi Ozoli. Ai tempi di Oresteo, una cagna bianca partorì un virgulto che Oresteo piantò e che crebbe diventando una vite. Un altro dei suoi figli, Anfizione, accolse ospitalmente Dioniso e fu il primo uomo che mescolò il vino con l'acqua. Ma il maggiore e più famoso dei figli di Deucalione fu Elleno, padre di tutti i greci. La storia di Zeus e dell'interiora del fanciullo è, più che un mito, un aneddoto morale che esprime il disgusto dei popoli civili della Grecia per i riti cannibalici praticati in Arcadia in nome di Zeus, riti che, secondo Plutarco, essi consideravano barbari e contro natura. Cecrope, il virtuoso contemporaneo ateniese di Licaone, offriva agli dei soltanto focacce d'orzo, astenendosi persino dal sacrificare animali. I riti di Licaone, che l'autore nega fossero mai stati patrocinati da Zeus, avevano evidentemente come scopo di tener lontani i lupi dalle greggi e dalle mandrie, inviando loro un uomo come re. Liceo significa della lupa, ma anche della luce, e la folgore citata nel mito di Licaone dimostra che lo Zeus Arcade fu all'inizio un re sacro, propiziatore di pioggia al servizio della lupa divina, la luna, che fa abbaiare i branchi di lupi. Il re sacro e il successore regnavano ciascuno per metà della grande annata di 100 mesi o di 8 anni solari, e i 50 figli di Licaone, uno per ogni mese del regno del re sacro, furono probabilmente coloro che partecipavano al pasto a base di zuppa. Il numero 22, a meno che non indicasse le famiglie che vantavano una discendenza da Licaone e partecipavano al banchetto sacro, si riferisce probabilmente ai 22 lustri che componevano un ciclo, e cioè il ciclo di 110 anni corrispondente al regno di una particolare dinastia di sacerdotesse. Il mito del diluvio di Deucalione, che evidentemente i portatori della cultura elladica importarono dall'Asia, ha la stessa origine della leggenda biblica di Noè. Ma benché l'invenzione del vino attribuita a Noè formi il nucleo di una storia ebraica a sfondo morale, che incidentalmente tende a giustificare l'asservimento dei cananei a opera dei loro conquistatori cassiti e semiti, i greci negarono a Deucalione il merito di aver coltivato la vite, e lo attribuirono a Dioniso. Deucalione, tuttavia, è descritto come fratello di Arianna, che divenne, a opera di Dioniso, progenitrice di molte tribù osservanti il culto del vino, e mantenne il suo nome, che significa «marinaio del vino nuovo» da Deucos e Alieus. Il mito di Deucalione ricorda un'alluvione che si verificò in Mesopotamia nel 3° millennio prima di Cristo, ma si ricollega anche alle feste dell'anno nuovo celebrate in Babilonia, in Siria e in Palestina. In queste feste si onorava Parnapishtim, che aveva versato il dolce vino nuovo ai costruttori dell'arca, nella quale, secondo il poema babilonese di Gilgamesh, egli era scampato con la sua famiglia al diluvio scatenato dalla dea Ishtar. L'arca era la nave della luna, e la festa era celebrata come cerimonia propiziatoria delle piogge autunnali in onore della luna nuova che precedeva immediatamente l'equinozio d'autunno. Ishtar, nel mito greco, viene chiamata Pirra, che è il nome della dea madre dei Puresati, Filistei, una popolazione cretese che giunse in Palestina attraverso la Cilicia verso il 1200 avanti Cristo. In greco pirra significa rosso ardente ed è un aggettivo che si usa per designare la vite. Xisutros era l'eroe della leggenda del diluvio sumero, di cui parla Berosso, e la sua arca si posò sul monte Ararat. Tutte queste arche erano in legno di acacia, un legname di cui si servì anche Iside per costruire la barca funebre di Osiride. Il mito del dio irato che scatena il diluvio per punire la malvagità umana pare sia un'aggiunta più tarda che i greci ricalcarono dalla mitologia fenicia o ebraica. ma i vari nomi di montagne situate in Grecia, in Tracia e in Sicilia, e sulle quali Deucalione sarebbe approdato con la sua arca, ci fanno supporre che un mito più antico del diluvio sia stato sovrapposto a una leggenda più tarda che parlava di un'alluvione della Grecia settentrionale. Nella primitiva versione greca del mito, Temi ridà vita alla razza umana senza chiedere il previo consenso a Zeus. È perciò probabile che a questa dea, e non a Zeus, fosse attribuito in origine lo scatenarsi del diluvio, come nella leggenda babilonese. Anche l'episodio delle pietre che si trasformano in uomini è un prestito fatto dall'Oriente alla cultura elladica. San Giovanni Battista accennò a una leggenda del genere, in un gioco di parole coi termini ebraici Banim e Abanim, dichiarando che Dio poteva far sorgere i figli di Abramo dalle pietre del deserto. La leggenda della cagna bianca, cioè della luna Ecate, che partorisce un tralcio di vite durante il regno di Oresteo, figlio di Deucalione, è forse il più antico fra i miti greci riguardanti il vino. Si dice che il nome di Ozolio derivi da Ozoi, germogli di vite. Anche uno dei malvagi figli di Licaone si chiamava Oresteo, il che può forse spiegare perché i mitografi abbiano forzatamente stabilito un rapporto fra il mito della zuppa di Interiora e quello del diluvio di Deucalione. Amfizione, il nome di un altro dei figli di Licaone, è la forma maschile di Amfizionide, la dea a cui si intitolò la famosa confederazione settentrionale, la Lega Amfizionica. Secondo Strabone, Callimaco e lo scoliasta dell'Oreste di Euripide, questa lega fu capitanata da Arcisio di Argo. I greci più civili, a differenza dei dissoluti traci, si astenevano dal bere vino puro. L'allungare il vino con l'acqua quando si svolgevano i concili dei capi di Stato, il che avveniva durante la stagione della vendemmia ad Antela presso le Termopili, era probabilmente un'ottima precauzione contro lo scatenarsi di pericolose discussioni. Elleno, figlio di Deucalione, fu l'antenato eponimo dell'intera razza ellenica. Il suo nome indica che egli era il rappresentante regale della sacerdotessa di Elle, o Ellena, o Elena, o Selene, la luna. Secondo Pausania, la prima tribù di Elleni giunse dalla Tessaglia, dove si onorava Elle. Aristotele dice che il diluvio di Deucalione si scatenò nell'antica Grecia e precisamente nella regione compresa tra Dodona e il fiume Acheloo. Graeci significa coloro che venerano la Vegliarda, presumibilmente la dea della terra di Dodona, che nella triade ha il nome di Graia, e fu fatta l'ipotesi che gli Achei invadessero il Peloponneso, costretti a fuggire in seguito a piogge violentissime che avevano allagato le loro terre. Il culto di Elle pare abbia sopraffatto quello di Graia. Lo scarabeo era il simbolo dell'immortalità nel Basso Egitto, perché questo insetto sopravviveva alle piene del Nilo. Il faraone, in rappresentanza di Osiride, saliva sulla barca del sole travestito da scarabeo, e la sua immagine sacra si diffuse in Palestina, nell'Egeo, nell'Etruria e nelle isole Baleari. Antonino Liberale fa menzione anche del mito di Cerambo o Terambo, citando Nicandro.